Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Il sole sorge presto e Kabul si sveglia lentamente. Alle 5 del mattino la luminosità è già quella di una località di mare. Alle 6.30 fa già molto caldo. Vengo svegliato dalle prime esplosioni proprio nel momento in cui il fresco della notte cede il passo alla polvere. Sono Paolo, sono piemontese, sono un viaggiatore curioso prestato alla vita militare. Questa mattina in un bar in cui ogni tanto vado a fare colazione ho incontrato un ragazzo che credo sia uno studente universitario che mi ha detto che è un ascoltatore del programma, ogni tanto mi citava alcune storie di quelle che abbiamo raccontato in questi 3 anni e a un certo punto mi ha chiesto: ma come fate a capire quali sono le storie vere e quali no? Io non gli ho saputo dare una risposta, nel senso che ci sono chiaramente dei racconti che arrivano che sono chiaramente racconti di fiction. Lo si capisce perché di solito sono scritti in terza persona invece che in prima. Degli altri abbiamo la presunzione di capire che siano non reali, insomma, che siano fiction invece che episodi di vita vissuta. E di altri ho detto: guarda, a un certo punto la verità è che noi chiediamo racconti di storia vissuta, di storia vera, episodi reali. Se ci scappa qualche storia che non è vera, se non abbiamo sgamato un tizio che ci ha mandato una storia e non è vera, e non era vera, vabbè, diciamo che probabilmente è merito suo. Sono le 16:09, quasi 10, questa è Radio 24. Il programma è un programma in cui ogni giorno raccontiamo una storia, lo avrete capito, immagino. E in questi giorni sto leggendo questo libro che mi ha regalato Tiziano, che racconta proprio della narrazione, è un autore americano che ne parla. E la cosa che ho letto un attimo prima di andare in onda è questa qua. Sappiamo poche cose riguardo al modo, alle modalità con cui le storie raggiungono le persone, ma una cosa la sappiamo bene: le persone vogliono immergersi in qualcosa, vogliono essere coinvolte in una storia, vogliono ritagliarsi un ruolo e farlo proprio. Se avete voglia di ritagliarvi un ruolo particolare, e se avete voglia, oggi, adesso, in un giovedì qualunque, alle 16:10, mentre siete in auto probabilmente e state andando da un posto all'altro, mentre siete, che ne so, al lavoro, in studio, a casa, la storia di oggi non è facilissima da ritagliarsi addosso, perché, come spesso succede, arrivano storie che non sono quotidiane. Ce ne sono alcune che lo sono e altre no. Ci sono storie che sono straordinarie, come questa, come la storia di Paolo. È la storia di un uomo che in un momento, diciamo, più o meno quotidiano della sua vita, da come la racconta lui, si trova sotto attacco, ma sotto un attacco vero, concreto, perché è a Kabul, perché è un militare e gli stanno sparando addosso. 349-238-6666, non vi chiediamo se vi hanno mai sparato addosso, spero di no, sinceramente, però immagino che vi siate sentiti sotto attacco qualche volta nella vostra vita, di recente. Anzi, no, facciamo così: l'ultima volta che vi siete sentiti sotto attacco, in metafora e no. 349-238-6666, altrimenti c'è un profilo Twitter che gestisce magistralmente Margherita Hina e un profilo Facebook che gestisco un po' peggio io. Voi siete qui Radio 24, tutti e due, li cercate e li trovate. Vi dicevo, dovete veramente fermarvi un secondo, è ottobre, non so che tempo faccia dalle vostre parti adesso in Italia, non so se piove come a Milano, anche se adesso ha smesso, oppure no, però dovete proprio cancellare completamente il panorama che avete davanti. Dovete immaginare di trovarvi in un posto molto caldo e pieno di polvere. È mattina presto e fuori stanno sparando. Il sole sorge presto e Kabul si sveglia lentamente. Alle 5 la luminosità è già quella di una località di mare, alle 6.30 fa già molto caldo. Il fresco della sera e quel poco di umidità residua della notte svaniscono in pochi minuti. Dopo il silenzio immobile di queste prime ore, questo pezzetto d'Afghanistan che posso osservare io diventa subito il regno della polvere e di un sole pesante, opprimente. La luce è qualcosa di buono, forse solo alle nostre latitudini. Vengo svegliato dalle prime esplosioni proprio nel momento in cui il fresco della notte cede il passo alla polvere, nel momento in cui il corpo assonnato si libera dalle lenzuola, e sono subito vigile. Ma c'è qualcosa di insolito. L'aria non è immobile, ma è percorsa dal duplice boato delle granate, una prima esplosione lontana al momento della partenza del colpo, un secondo botto più forte, rotondo, metallico al momento dell'impatto, più forte perché vicino a noi. Sono sono un ufficiale dei carabinieri e mi trovavo a Kabul partecipando alla missione di pace internazionale che serve per sviluppare le capacità degli afghani di gestire la sicurezza del proprio paese. Guardo fuori dalla finestra e non vedo assolutamente nulla, salvo la totale assenza dei pochi passanti che si mettono di solito in movimento già a quest'ora. Chiamo telefonicamente la nostra ambasciata per riferire che siamo sotto attacco. Mi risponde una voce assonnata. Ancora non lo sapevano. Guardo l'orologio, sono le 4:20 del mattino. Penso che è un buon inizio di giornata questo. Beh, mi dico che siccome non sono coinvolto nella difesa della base, è il caso che mi faccia la barba e che mi vesta, poi si vedrà. Nel frattempo le esplosioni si intensificano e la mattina è rotta da un fitto scambio di colpi di fucile e dalle raffiche delle mitragliatrici. Siamo bloccati nelle nostre camerate, ricavate all'interno di edifici che garantiscono la protezione balistica necessaria. Ogni tanto esco sul corridoio e scambio qualche parola con gli altri. Ci si affaccia pure dalla porta per vedere cosa accade fuori. La strada è percorsa velocemente da vetture blindate che diffondono con gli altoparlanti l'ordine di non muoversi, non uscire. Ogni tanto qualcuno della polizia militare ci urla di rientrare, perché è molto pericoloso. Ci troviamo a 600 metri dal nemico e qualche colpo cade anche sulla pista dell'aeroporto. Nel frattempo si chiarisce la dinamica degli eventi. Un gruppo di fuoco composto da 7 individui votati alla morte ha tentato di forzare il dispositivo di sicurezza dell'aeroporto. Il primo attentatore suicida si è fatto esplodere alla guida di un veicolo carico di esplosivo. Gli altri 6, pesantemente armati, non sono stati in grado di entrare e si sono quindi asserragliati all'interno di un edificio in costruzione, dal quale si affacciano sull'aeroporto in posizione leggermente sopraelevata. È da lì che tentano di colpirci con le granate. La reazione della nostra Force Protection non si fa attendere, è violenta. I colpi in partenza scavalcano una serie di abitazioni basse che si interpongono tra l'aeroporto e la palazzina. La palazzina incassa proiettili di tutti i calibri e qua e là si vedono mattoni che cadono e serramenti in legno che volano, scardinati. Quando sei in quei momenti ti concentri sulla sequenza degli atti che devi compiere. Avere paura è un sentimento utile finché non ti blocca. E la paura deve essere qualcosa che ti sprona ad agire. Quando sei in un momento difficile, programmi istante per istante le tue azioni, cercando di commisurarle alla situazione contingente. Arriva nel frattempo anche la Quick Reaction Force afghana. Dal nostro assedio ho anche la possibilità di vedere i filmati messi online dalla BBC. Il loro corrispondente è stato abilissimo nel raggiungere l'area di sosta degli afghani e pubblica quello che vede. Assisto ai movimenti frenetici dei veicoli blindati della polizia afghana. Poi arriva anche l'esercito con il suo personale. Le immagini sono un po' caotiche, ma ti fanno capire che da dove arriva quell'uragano di fuoco, di ferro di fuoco che impazza nell'aria, ci sono quei 6. È proprio strano vedere in televisione qualcosa che ti riguarda da vicino. Sembra di vivere un po' dissociati. Ma forse il senso della violenza è questo qua. Un'oscillazione schizofrenica tra la normalità e un'energia distruttiva da rivolgere verso il nemico del momento. Altre esplosioni, fumo, raffiche di mitragliatrice e poi tutto rallenta, fino ad esaurirsi nelle prime ore della mattina. Alle 9:20 ci dicono che è all clear, che è tutto pulito. Vedrò poi le fotografie del sopralluogo condotto nella palazzina in costruzione. Gli attentatori votati alla morte hanno trovato ciò che cercavano. Mi chiedo impietosamente se hanno poi trovato anche le vergini che attendono il loro martire, quello della Guerra Santa. Il nemico non ha avuto una morte facile, e neppure composta. Qualcuno ha morso la terra per il dolore, qualcun altro è irriconoscibile. Anche in questo caso mi viene da pensare che tutto ciò è molto triste, tutto ciò è praticamente inutile. Let me take you down, 'cause... 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. È una foto che è scattata in un luogo che non è l'Italia, da quello che mi sembra di capire, o perlomeno che mi piace immaginare. Paolo è di tre quarti, è in divisa, andate a vederla la foto perché è molto bella, è sul sito di Radio 24, ovviamente la nostra pagina, voi siete qui. Paolo è di schiena, di tre quarti più che di schiena, come vi dicevo, si intravede mentre sta facendo una cosa molto precisa, sta, credo, potando delle rose. C'è un vaso e due rose molto belle, rosse, le sta maneggiando, non so se le sta potando, le sta sistemando, il tutto in divisa da carabiniere con una pistola nella fondina, e davanti a lui c'è un quello che credo sia un container con una scala, è qualcosa di, insomma, tipo base, potrebbe essere una base di una, che ne so, di un'impresa edile, oppure una base militare, e la luce bianca e accecante. Pronto Paolo, buongiorno. Buongiorno a voi. Come stai? Benissimo, grazie per lo spazio che avete dedicato alle mie impressioni. Ma figurati, non ci capita tutti i giorni di parlare con uno che si sveglia la mattina e dice: vabbè, ci stanno sparando contro, però non devo difendere io la base, quindi dai che mi faccio la barba. Ma non capita fortunatamente neanche a me di svegliarmi tutte le mattine sotto attacco. Devo dire che è un evento eccezionale, per quanto antipatico, e insomma ho voluto fissarlo per ricordarmelo più avanti, perché insomma la memoria fa sbiadire le cose brutte e anche le emozioni poi si attenuano. Tra l'altro tu te lo ricorderai, noi invece diciamo lo abbiamo letto molto chiaramente perché il tuo racconto è molto preciso. Mi piace anche il fatto che tu definisca che sette ti sparano contro un episodio antipatico, ma vorrei però fare un passo indietro, se sei d'accordo Paolo. Certo. Come ci si arriva in Afghanistan a farsi sparare contro una mattina appena svegli? Cioè, mi racconti più o meno qual è stato l'iter per cui sei arrivato a fare il carabiniere? Tu sei ufficiale dei carabinieri, giusto, dicevi? Sì, io sono un ufficiale dei carabinieri che ha indossato l'uniforme per passione, cercando di essere utile nella società, quindi aspirando ad un ruolo attivo. Questa posizione mi ha poi portato a partecipare a diverse missioni di pace, alle quali la nostra nazione partecipa inviando contingenti. Chiaro, ci puoi dire un po' dei posti in cui sei stato? Ma io ho avuto l'opportunità di lavorare nei Balcani, in Iraq e più volte in Afghanistan. E adesso sei tornato da quanto? Cioè devi ripartire? Sei pronto per nuove missioni? Io fortunatamente sono con la mia famiglia, rientrato in Italia, pronto a partire quando ci sarà nuovamente bisogno di me. Posso chiederti quanti anni hai, Paolo, più o meno? 40. Ah, ma sei giovanissimo. No, lo dico perché nella foto, perdonami, forse sembra che tu abbia capelli un po' bianchi, però probabilmente... Sì, quelli sono diventati bianchi, non per colpa mia, non ci posso fare nulla, i capelli sono proprio bianchi, sì. Mi racconti com'è una giornata tipo... innanzitutto tu, se ce lo puoi raccontare ovviamente, diciamo rimanendo vaghi, tu di cosa ti occupavi esattamente lì? Di formare le forze afghane, giusto? Ma sì, mi sono occupato di quello e anche di programmi per l'implementazione dei diritti umani, come diciamo noi, quindi sviluppare le capacità degli afghani di aderire alla normativa internazionale e quindi tenere conto degli obblighi che quel paese ha contratto per la promozione dei diritti umani. Ok, abbastanza chiaro. Mi racconti una giornata tipo lì? Che ora ci si sveglia? Che cosa fai? Cioè, durante la giornata uno come te, per quanto ti riguarda, stai in ufficio, esci, hai azioni pratiche da compiere? Uno come me è chiamato ad essere molto versatile, nel senso che uno come me è tenuto a sviluppare attività d'ufficio, come pure attività sul campo e di concerto con i miei afghani, insomma, le persone, certo, con le quali ho contatto. Per cui la settimana è variabile, la giornata è variabile, la routine, che può essere spezzata in qualunque momento da un evento imprevisto, è quella di una sveglia presto, una buona colazione, un passaggio dall'ufficio per vedere che cosa c'è e poi l'organizzazione, se necessario, delle attività esterne alla base, al compound. E tutto questo purtroppo all'interno di una cornice di sicurezza che ci obbliga ad essere sempre pronti a reagire in caso di una minaccia contro di noi. Che cosa fai nel tempo libero? Quando sei lì, intendo dire. Beh, io sono in Afghanistan e mi prendo cura delle rose. Ah, ok, perché quella è insomma, se ci hai mandato questa foto è perché hai una passione, volevi raccontarci qualcosa, immagino, parlandoci di rose. Io amo le rose sono una metafora della vita. Per averle belle bisogna tagliarle tanto. E quindi questo ti fa capire che le cose importanti nella vita forse si conseguono con un po' di sacrificio. Quelle della fotografia sono delle rose di Damasco che crescono spontaneamente nella zona dell'Afghanistan. Quindi insomma è stato un piacere poterle osservare, accudire, veder fiorire nel periodo in cui mi trovavo là. Paolo, tu dici questa frase che trovo molto interessante, proprio perché sei una persona che per quello che fai immagino che si trovi spesso, fortunatamente non quotidianamente, ma spesso di fronte ad atti di violenza, e tu dici il senso della violenza forse è questo, è un'oscillazione tra la normalità e un'energia distruttiva da rivolgere verso il nemico del momento. Mi spieghi questa frase? Cioè è come dire che ogni tanto la violenza è una cosa normale e ogni tanto invece diventa un atto dovuto, oppure semplicemente nasce dalla normalità? No, intendevo dire che la violenza ce l'abbiamo dentro, tutti, è il nostro peccato originale. La normalità è tentare di controllarla, tentare di trasformarla in qualcosa di positivo. Ok. E come la trasformi la violenza in una cosa positiva, Paolo, scusami? Ma guarda, per il ruolo che svolgo, per me non si parla mai di violenza, ma di legittima coercizione, ovvero l'imposizione anche con la forza delle armi del primato del diritto. Per me questo è il modo di volgere al positivo la violenza, se è necessario farlo. Molto meglio poter ragionare ed entrare nelle situazioni pacatamente. Talvolta non è possibile farlo. Ti sei mai sentito in una di queste azioni, oppure comunque durante il tuo lavoro attivo sul campo, in colpa per qualcosa? Cioè ti è mai parso, ti sei mai detto, boh, forse sta cosa non dovrei farla? Guarda, piuttosto mi sono trovato a volte vittima del sentimento di non poter fare di più. L'impossibilità di fare di più. A volte la situazione contingente ti impedisce di fare fino in fondo quello che vorresti e magari anche fino in fondo quello per cui sei stato chiamato ad andare all'estero. Chiaro. Purtroppo questo è evidente quando pensiamo a situazioni legate alla sicurezza che ci impediscono di muoverci, che ci impediscono di arrivare in certe località del paese. Paolo, e poi ti saluto, prima parlando con Pietro Lacorto, guardando la tua foto con le rose, ci siamo detti, ma quindi tu non hai fatto i 3 giorni, non hai compilato quel questionario, ti piacciono i fuori, vuoi fare il fiorista? Beh, questa è una cosa molto divertente. Sì, penso di aver mentito, okay. compilando questa parte del questionario. È ufficiale. Paolo, ti ringrazio molto per la tua storia e in bocca al lupo per tutto. Grazie a voi e buona serata. Ciao, buona giornata. Anna mi dice, sì, ma se citi un libro... Se citi un libro, devi dire il titolo. Credo che Anna arrivi probabilmente, siano naufraghi di Fahrenheit di Radio 3, dove giustamente lì si dicono le cose precise. Il libro si chiama Immersi nelle storie, il mestiere di raccontare nell'era di internet. L'autore è Frank Rose. Ieri in riunione con i nuovi manager che hanno comprato l'azienda mi sono sentito sotto attacco, e tuttora oggi, poi ancora ogni giorno sono sotto attacco da parte di mia figlia Martina, 18 anni, mi sta rovinando. Sono sotto attacco tutte le volte che gioco da mediano di mischia, ovvero il bersaglio preferito delle terze linee. Le sfido con l'astuzia, a volte vinco io, a volte vincono loro, e fa male. Luca, grazie a quelli che hanno reso possibile questa puntata, che sono Pietro Lacorte, Margherita Ina, Tiziano Bonini, più o meno sempre i soliti, ogni volta lo dico come se ci fosse qualcosa di nuovo. Grazie soprattutto a Paolo per la sua storia, perché la storia di oggi era la sua, e anche lui è un punto rosso su una mappa. Sono Mario Salmon, abito a Bologna, la storia di domani è la mia, il racconto è di un incidente in montagna nel quale sono sopravvissuto, direi per caso, perché quello non era il mio giorno. Questa è la mia storia e io sono qui.